as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui a Il Pane e le Rose, Radio Città Fujiko, la nostra trasmissione degli operai, metalmeccanici e non solo, come dico sempre. Oggi facciamo una puntata un po' speciale. Oggi, come accade ogni tanto, affrontiamo anche quello che accade nella lotta di classe di lavoratori fuori dall'Italia. E oggi parliamo di Perù. Abbiamo intervistato, lo sentirete dopo, il pezzo bellissimo di Congonati, Revolution. Oggi la musica sarà tutta dedicata a questo, alla rivoluzione. Sentite l'intervista che abbiamo fatto a dei peruviani, la manifestazione della GKN in cui abbiamo fatto una puntata un po' di settimane fa. In quella occasione abbiamo incontrato dei compagni peruviani, che il rappresentante dei peruviani che si stanno battendo per quello che accade al loro paese di Firenze, e ci ha raccontato, con loro abbiamo parlato di quello che sta accadendo in Perù, di come si sta sviluppando la lotta di classe nel loro paese. Ora noi siamo stati a loro fianco anche nelle manifestazioni che ci sono state. Il 19 marzo a Milano c'è stata una bellissima manifestazione dei peruviani che chiedevano chiaramente il rispetto dei diritti umani, le dimissioni della Dina Boluarte. Sapete che quello che è accaduto in Perù, per chi non conosce la storia del Perù degli ultimi mesi, Castillo, il professore di scuola eletto presidente, il marxista Castillo, lui si definisce così, nel 2021 è stato eletto. Aveva un programma molto rivoluzionario e questo ha fatto sì che all'interno del paese anche lo stesso suo partito, Perù Libre, no? Un partito che si definisce di estrema sinistra, non gli ha permesso di sviluppare il suo programma. Ed è stato praticamente tratto in arresto quando ha cercato di chiudere il congresso, visto che il congresso, insomma, non riusciva ad applicare. Poi il suo programma era sintetizzato nel suo motto: non si può essere poveri in un paese ricco. Quello che l'ha fatto anche vincere, l'ha fatto diventare l'eroe del popolo, dei lavoratori del Perù. Il suo programma si fondava su due questioni principali: cambiare la costituzione di Fujimori, una costituzione che io definisco fascista, in chiave socialista, così come la voleva lui trasformare, e soprattutto la rinegoziazione di tutti i contratti delle multinazionali che hanno in mano le miniere del Perù. Questa era la cosa che più dava fastidio alla borghesia peruviana e non solo. E lui è stato arrestato il 7 dicembre del 2022 e da lì poi sono partite le manifestazioni. La cosa incredibile che abbiamo visto è che queste manifestazioni hanno avuto una forte, fortissima presenza di lavoratori soprattutto, e sono partiti dal basso queste manifestazioni. Adesso sentiremo, dopo un pezzo musicale, l'intervista al compagno e poi faremo delle piccole conclusioni alla fine della puntata. Ok, sentiamo a dopo. This record is one more attempt to expand the minds of all youth worldwide. Satan is a mental disease and its symptoms are hate, jealousy, lack of self-respect and lack of discipline. Hear these words and strengthen yourself. Yeah. Revolution. The revolution. Sing me a song that's called freedom. The revolution. Rastafari is God, you know what I mean? And yet the Bible will tell you that within 2,000 years Christ shall return, and when he returns, he will be King of Kings, Lord of Lords, conquering the tribe of Judah, through the land of King Solomon and King David. Now that is a reality. the revolution. The revolution. Revolution. Ready for the streets, soldier. Ready, warrior. Buck off the chains and the music bar. Sending going space like Jupiter. Chase at the devil when the dark rider. Boom, boom, bang. Who's that? Joshua. Round the walls and the new order. Dreadlock strikes with the buffalo soul. She running, moving, I'm bound for the gold. Tabernacle road that I come from road. UK story has gotta be told. Concrete jungle, that's where I live. Now it's the time for the fugitive. Fugitive, fugitive. Now it's the time for the fugitive. Hear these words to strengthen yourself. Praise Jah. Allora, siamo qui a Firenze, a manifestazione della GKN, e ho incontrato un compagno del Perù, Richard. Siccome abbiamo affrontato in passato anche la rivoluzione che sta accadendo oggi in Perù, i scioperi, le manifestazioni, con lui volevo parlare proprio di questo. Allora, Richard, raccontaci un po', parlaci un po' di quello che sta accadendo in Perù. Ecco, buonasera, io sono Richard Azaña, sono di Lima, Perù. Quello che è successo in Perù è stato dal 7 dicembre. È stato ingiustamente messo in galera al presidente eletto per il popolo. È stata una cosa molto ingiusta e non esiste mai la storia dell'umanità che un presidente è andato in galera in 30 minuti. Poi, dopo ha preso il comando la seconda al potere, una donna che era, diceva essere a sinistra, invece si è alleata con la destra e ha tirato fuori la polizia e i militari. Da quel momento in poi è un morto per giorno. Sono passati più di 100 giorni e sono più di 100 morti. Nessuno paga per questo. La gente è fuori in strada, il popolo si è alzato, la gente del sud è un simbolo per noi tutti i peruviani che stanno viaggiando alla città Lima, capitalista, centralista, radicale e discriminatoria anche la gente di Lima. Comunque loro viaggiano in massa, massa gigante del sud, gli danno l'esempio perché loro vogliono, come noi che siamo qui fuori del Perù, Vogliamo il cambio, che questo governo cada, cada davvero. Tutto il gabinetto della morte di questi ministri assassini devono pagare per quello che stanno facendo. E stanno vendendo il Perù alle aziende americane. Collegati con loro, si è scoperto che loro hanno bisogno del litio che si è scoperto al sud del Perù. Tantissime tonnellate di miliardi di litio. E loro hanno bisogno di questo oro del futuro. Il vostro presidente, il vero presidente Castillo, lui voleva invece che queste risorse fossero del popolo peruviano, voleva nazionalizzare, non voleva venderle. Ecco, questa è una delle ragioni, no? Perché l'hanno arrestato. Una delle proposte da questo signore Pedro Castillo Terrone, presidente del Perù, è stato messo in galera per la destra. Perché? Perché questi anni 2023 scadevano tutti i contratti con le miniere, tutti i contratti con il governo peruviano, che scadevano giusto questi anni, il 2023. Lui non farebbe il rombo a nessuno, tutto deve essere dei nazionalisti, dal Perù, dal popolo, di questi potenti padrone del denaro, del potere, perché loro non governano, solo se mettono a sedere e dicono a su burattini parlamentari, no? Politici di muoversi come loro vogliono. Hanno messo in galera con l'ingiustizia, con le falsità, con le bugie, a lui l'hanno messo in galera perché vogliono il rinnovo di questi contratti. Ora, la miseria esiste in Perù, tantissima miseria. Siamo un paese ricco in ricorsi naturali. Abbiamo tutto, gas, oro, acciaio, abbiamo tutto, e poi ora è litio. E noi lo vogliamo per noi stessi. Se noi possiamo amministrare queste risorse naturali, possiamo essere una potenza più del Dubai, più di qualunque altro paese del mondo. Però noi siamo poveri, miserabili, viviamo veramente come morti di fame. Dove si portano via tutte le risorse, la gente vive nella miseria, gli hanno tolto la proprietà, la vita, la natura, non hanno vita propria. Loro sono usciti dalla vostra casa a Lima a lottare per un cambio. Loro non torneranno a casa con le mani vuote, moriranno in Lima per un cambio. Ci sarà una rivoluzione, già c'è una rivoluzione in atto. La rivoluzione c'è, ma noi la rivoluzione con le nostre armi sono la voce, le nostre bandiere, e queste le nostre armi. Purtroppo il governo sta assassinando la nostra gente, stanno creando dei delitti immaginari. Tutti quelli che parlano incontro al governo le mettono un titolo sopra, dicono voi siete terroristi, di questa maniera giustificano, mettete in galera 30-40 anni. Stanno mettendo paura al popolo, però il popolo continua nella strada e noi lotteremo fino alla fine. Una cosa ti volevo chiedere, il ruolo dei sindacati in questa rivoluzione, che per noi è importante perché stiamo spingendo all'interno del sindacato, che anche il sindacato italiano appoggi la vostra lotta, perché i sindacati peruviani sono a favore di questo cambio, no? I sindacati del Perù sono divisi, quello okay. Che sono in Lima sono come cagnolini del governo, no? Le danno delle briciole e loro si accontentano, invece quelli sindacati che vengono dalle campagne sanno, lottano perché un diritto che le corrisponde, non per quello che vivono in Lima. Quello in Lima le danno un briciolo e stanno contenti, non lottano, loro sono conformisti. Quello di campagna ha dato l'esempio a quello di Lima. Ok, dunque ci sono i sindacati di campagna, ci sono i sindacati quelli più forti, nazionalisti, patrioti davvero, che hanno indetto lo sciopero generale, sono scioperi su hanno sciopero. Chiuso le strade, le autostrade, i mercati, in scuola, hanno chiuso tutto. Se non si uniscono tutti, il cambio non si fa. Certo. La gente del sud, del nord e del centro si stanno unendo, stanno chiudendo tutto. E invece Lima funziona come se non fosse nulla. Sì. E questo è il problema. Lima hanno 13 milioni di abitanti. Loro, nemmeno l'1% chiudi. Loro lavorano come se non succedesse nulla. E questo è un po' vergognoso anche. E invece i partiti politici che oggi sono in Perù, come sono messi? Cioè, stanno appoggiando? Quale partito sta appoggiando questa... Nessuno? Hanno diventato questi due partiti di sinistra traditori. JP, Junto per Perù, e Perù Libre, il partito del presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo, quando ha chiuso il congresso il 7 dicembre, aveva chiesto la chiusura del governo e il cambio di tutto il sistema di giustizia nel Perù. Purtroppo la Forza Armata se l'hanno girato, hanno dato con la destra. Loro non avevano, sono 130 congressisti parlamentari che dovevano avere 87 voti. Non arrivavano, perché la sinistra nostra erano quasi 40 persone, 41 persone. Non arrivavano, arrivavano giusto a 60 voti, 65. Quando lui ha chiuso il congresso, questi di sinistra, che dicono essere del popolo, ci hanno tradito. Perché sono arrivati a 101 voti. Ok. Vuol dire che questi, che erano la nostra gente, ci hanno tradito. E grazie a loro lui è andato in galera. E oggi allora la battaglia è una battaglia di lavoratori di massa, cioè di, della base, senza partito, diciamo, organizzati da chi? Nuovi leader popolari, si sono alzati piccoli gruppi, si sono alzati, si sono fatto, stanno lottando in strada per i suoi diritti, come deve essere, no? Auto-organizzati, diciamo. Tutti organizzati, però tutti lottano per un solo, e l'obiettivo ora, la missione, il compito è tirare fuori Pedro Castillo di galera e che lui restituirlo al potere, no? Ma c'è anche una voglia di cambiare la società capitalistica? Che avete capito che quello è il problema, è sono tutto, i ricchi del Perù. È tutto centralista, e Lima purtroppo sono i potenti, i padroni, no, del Perù, che loro praticamente sentono che il Perù è suo, è la sua proprietà, non un governo, un paese libero, siamo tutti gli schiavi, danno dei stipendi di miseria, non abbiamo un lavoro, un contratto fisso per 40 anni, lavoro per 2-3 anni, non abbiamo un contratto direttamente con le aziende, un contratto per 3-4 mesi, una vecchiaia da miseria, da fame, vergognoso anche. Un'ultima domanda ti faccio, in Italia ci saranno altre manifestazioni per rivendicare le vostre richieste? Le organizzerete? Ci sono state alcune manifestazioni, io so, in giro per l'Italia. Grazie per quella domanda, e noi siamo partecipati la settimana scorsa a Milano, sì. È stata una grande convocazione, vero. Però siamo un po' divisi perché loro hanno un'alternativa delle nuove elezioni. Sì. Non si faranno, noi non vogliamo le nuove elezioni perché già abbiamo un presidente, vogliamo la sua liberazione e la sua restituzione al potere. Ora, a Firenze si farà il giorno 23 aprile, ecco. Si farà l'invito a tutte le altre associazioni, a tutti i gruppi, che quello che verranno invitati qui a Firenze, dimostreremo che il presidente Castillo deve essere libero, restituito il potere, e quella costituzione del 93 è fatta per un presidente corrotto, Fujimori, Alberto Fujimori, che nemmeno c'è la sua rubrica sulla costituzione, non ce l'ha, su una costituzione, un foglio che non c'ha valore, però loro lo rispettano, e noi vogliamo restituire la costituzione del 79, che con quella lì tutti i contratti che si hanno fatto dal 93 fino ad ora non hanno valore. Ok, ho capito. Se può recuperare tutto il Perù, tutte le risorse potrebbero tornare nelle mani del popolo. Però dobbiamo lottare per questo, ragazzi. Bocca al lupo, noi siamo con voi. Grazie. Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración. Soy un hijo de la calle, en la calle estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad, porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, the revolution starting so in media. I'm in the jungle smoking cigar and sing semilla. Marching down to Babylon with me Rasta Nelita. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero el Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Chile, México, reggae es un milagro. Brasil y las favelas y la ciudad de Dios. Dos veces de revolución, uno, dos. This is song of freedom, this is my redemption. Reggae campesino brought to perfection. Cuban cigar and a reggae election. Caribbean militancy, cultural injection. Yo quiero el Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. revolución. Yo quiero el Che Guevara y la revolución. Yo quiero a Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Costa Rica, México, Venezuela, por la revolución. Allora, abbiamo ascoltato il compagno, avete sentito con quanta forza e foga i compagni peruviani sono decisi a continuare la loro battaglia. Il compagno ci ha anche spiegato che però sono divisi non solo tra i peruviani in Italia, che sono comunque contro il golpe che c'è stato, sono divisi anche in Perù. Abbiamo sentito come c'è una forte divisione tra Lima e il resto del Perù. Diciamo che la parte più combattiva lo è sempre stata il sud. Ci sono stati gli scioperi, sono stati veramente molto molto duri nel sud e nel centro, nord un po' meno, ma il grosso problema è che nella capitale ancora oggi i milioni di peruviani che ci sono nella capitale non sono ancora completamente coinvolti, altrimenti ci sarebbe già stata una rivoluzione vera e propria, avrebbero cacciato sicuramente il governo illegale che oggi è in Perù. Questo però è un problema, questa divisione sta portando alla stagnazione della situazione. Infatti negli ultimi mesi le cose non sono completamente ferme, però il movimento ha avuto un piccolo stop. Ora, quello che avete sentito, il compagno ci spiega come in realtà i sindacati sono anche lì, c'è il sindacato di Lima, poi c'è anche il sindacato della CGTP, che qui sono arrestati anche il segretario della CGTP, e soprattutto i partiti ormai sono tutti screditati agli occhi di chi oggi scende in piazza e sciopera, ma si è creata questa assemblea nazionale straordinaria dei fronti di difesa e delle organizzazioni sociali, che sono stati eletti, sono organizzazioni che possono essere qualcosa, un embrione di Soviet. Certo, quello che i compagni marxisti chiedono è che ci sia un'assemblea rivoluzionaria nazionale che colleghi tutti, colleghi le varie organizzazioni che oggi sono in piazza, a partire sia dai sindacati e da questi fronti di difesa. E bisogna farlo il prima possibile, perché bisogna unire le forze. Il stesso compagno ha detto: le divisioni non fanno bene e tante organizzazioni oggi sono in piazza di varie regioni, però si stanno coordinando piano piano. Questo è fondamentale. Avete capito bene dov'è la questione? Il litio, e non solo il litio, tutte le miniere peruviane, le risorse naturali del Perù. È quello che fa più rabbia nel Perù, è proprio questo, cioè un paese ricco di risorse che in realtà vede una popolazione estremamente povera, soprattutto la popolazione che vive nelle campagne, nelle montagne, che purtroppo soffre, e vede che da tempi di Fujimori, ma anche prima, tutte le risorse vengono rubate e non rimane nulla in Perù. Ma serve un cambio radicale. Io spero che i lavoratori peruviani possano veramente trovare la strada di rivoluzione, organizzarsi e cambiare veramente il sistema capitalistico sfrenato neoliberista che oggi in Perù ha la faccia più estrema, soprattutto che i traditori vengano puniti per quello che hanno fatto. Una storia davvero triste quella del Perù, in cui quando ci fu l'elezione di Castillo, io ero tra quelli che ero contentissimo, avevo speranze anche nel partito di Castillo per Ulibre, che ha tradito, avete sentito. Ma il tradimento dei partiti cosiddetti riformisti potrebbe anche essere qualcosa di buono, far capire veramente che è il momento di cambiare radicalmente il paese, l'economia del paese, e finalmente restituire ai peruviani quello che è loro, soprattutto dignità del lavoro e dei lavoratori del Perù. Siamo sempre al loro fianco. Il 23 aprile a Firenze ci sarà una manifestazione dei peruviani, la comunità è molto forte, io invito tutti quanti a partecipare il 23 aprile a Firenze, manifestazione dei peruviani per richiedere la liberazione di Castillo, perché così, come hanno detto loro, un presidente ce li abbiamo ed è un presidente che ha la fiducia del popolo e dei lavoratori del Perù. Un saluto a tutti i compagni e a presto. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución.